24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Eccoci qui, sono le 6:33 minuti, buongiorno in questo venerdì, cari ascoltatori, l'ultima puntata della settimana di 24 mattino, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, che sarà alpino e quindi si sveglierà per questo molto presto, ma dice meno male, è venerdì. Saluto anche Miriam Lucchetti in redazione e tutti voi e a tutti voi come sempre il consiglione. But please relax. A maggior ragione visto che arriva il weekend. Allora, siamo pronti per aprire per l'ultimo giorno della settimana, qua il sabato e la domenica, tutto chiuso, le serrande, il nostro bar condicio. Eccola qua, chi ci offre il caffè oggi? Sempre lei. Sempre Nicole Minetti. Avete finito di rompere le palle con la Minetti. È la Minetti, sempre la Minetti. Vabbè, non sapete parlare d'altro. Andate a lavorare, pelandroni. Vabbè, è così. Ce lo offre lei il caffè, Nicole Minetti. Se trovate qualcuno che offre il caffè a tutti quanti, volentieri fatecelo sapere. Voglio salutare Massimo De Manzoni. Buongiorno, ben ritrovato, vice direttore di Buongiorno. Libero. Eccoci qua. Buongiorno. Allora, saluto anche Carlo Rienzi del Codacons. Finalmente torna con noi. Eccolo qua, Rienzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Che mi pare, non lo so, ma siete stati voi che avete proposto questa cosa del test antidroga per chi si vuole candidare? Siete stati voi? No, non siete. Infatti ho detto, ho pazziato, ci mancava solo questo, no? Il test antidroga per chi, da qualche parte l'ho letto, vabbè. Allora, la politica si anima sempre più, sentite, vi voglio far sentire un confronto, per carità, un confronto sul fronte della comunicazione. Sapete che Mario Monti, tra l'altro è candidato con lui il direttore del Tempo, Mario Secchi, Massimo De Manzoni, scende in politica, no, sale in politica, e ha detto farò di lui l'Obama della comunicazione, Twitter, Facebook, TV, strategia. Ieri però Mario Monti, che è salito anche su Facebook, ha postato questo messaggio su Facebook, devo dire dal punto di vista della comunicazione un po' da rivedere, sentiamo. Perché sono salito in politica? Perché esiste una lista con Monti per l'Italia? Un anno fa sono stato incaricato di tirare fuori l'Italia da una crisi finanziaria che rischiava di distruggere. Vabbè, non ci interessa, qui non vogliamo il contenuto, non vogliamo analizzare quello che dice il senso, ma sentite il ritmo, Massimo De Manzoni, senti il ritmo, no? Uscire come dire, no? Cioè la politica Secchi è un bravissimo collega, ma neanche lui ce la può fare. No, no, ma per carità, cioè, no, ripeto. Non per questa campagna elettorale, c'è sempre quella del 2018. Ripeto e chiarisco per l'ennesima volta, non vogliamo entrare nei contenuti, ma voglio dire, cioè, anche, ecco, sentite ieri per esempio gli slogan vanno molto in campagna elettorale. Berlusconi, che appare in TV più che la Madonna Fatima, sono due apparizioni al giorno quelle di Berlusconi, sentite ieri lo slogan di Berlusconi che ha coniato. Cercheranno di collaborare dopo le elezioni e quindi vale veramente la norma dei supermercati in cui dici compri uno e prendi due, qua voti uno e prendi l'altro, voti Monti e ti prendi anche Bersani e Vendola. Ecco, cioè dal punto di vista, voglio dire, dell'efficacia del messaggio. Poi, ripeto, magari bisognerebbe fare come ha suggerito Roberto Saviano, tra poco lo diremo. Però Carlo Rienzi, che ne pensa lei da capo dei consumatori, il Codacons di questa campagna elettorale? Allora, è più bravo almeno a comunicare Berlusconi, ma al di là di quello che comunichi? Sicuramente è più bravo a comunicare, ma soprattutto Monti ha deluso, diciamo, la gente, non si aspettava questo scendere in politica. Salire. Perché non abbiamo capito che diavolo vuol dire questo salire in politica. Lui è sceso, perché è sceso da una posizione che era molto diversa, molto importante per il nostro paese, che invece diventa adesso uguale come tutti gli altri. Poi noi siamo un po' stufi di tutte queste campagne elettorali, lo ripeto, adesso cominciamo a sentire un'altra volta quello, il nemico è quello, il diavolo è quell'altro, il diavolo è quello. Ma avete mai sentito parlare voi del problema dell'acqua inquinata all'arsenico che interessa 1,5 milioni di italiani? No, ma io, voglio dire, gennaio non bevono l'acqua. Beh, adesso no, Renzi, non mettiamo nel terrore che non bevono no, più l'acqua. Non è terrore, cioè, sono chiuse dal 1 gennaio. Sono stati fatti provvedimenti di non potabilità per 1,5 milioni di italiani in Lombardia, in Toscana, in Lazio soprattutto, la maggior parte sono 1 milione nel Lazio e in qualche altra regione. Di questo avete mai sentito parlare? Sapete che la gente si alza la mattina e non può bere l'acqua? De Manzoni, perché non scrivete sul libro queste cose invece di scrivere le solite? La sapeva De Manzoni questa? No. Giuro di no. No, ma al di là di questi programmi... Non abita in uno dei 180 comuni che hanno sto problema. Ma Carlo Renzi vuole sentire dei programmi. Ma che è matto lei? Bravo. Vuole sentire dei programmi sui giornali? Leggere dei programmi sui giornali? Ma che stiamo a pazziare anche lei? No, noi scriveremo anche dei programmi, se ne fossero. No, infatti la questione è questa. Tutti i giorni si legge quello è il piffero, quello è il diavolo, quello risponde, quello compri uno, paghi due. Tutte queste cose qui, ma non si capisce niente dei programmi. La desistenza, il patto di desistenza, candida quello e si candida Cosentino, non si candida Cosentino, e si candida Dell'Utri, non si candida Dell'Utri. Però effettivamente Massimo... questo lo aggiunge Renzi. La metà delle città in Italia supera il limite di inquinamento dell'aria. Questo bisognerebbe sentir dire. Cioè, io quando andrò al Parlamento, sarò ministro dell'ambiente, eccetera, per queste città farò questo, 1, 2, 3, per quelli che non possono più bere l'acqua e cucinare la pasta farò questo, 1, 2, 3. Ma scritto, firmato, non con la porta a porta, cioè una cosa seria. No, che diavolo, scritto e firmato. A proposito di scritto e firmato, De Manzoni, effettivamente su questo, sulla mancanza di analisi dei programmi, perché dici non ci sono? In realtà ci sono i programmi, però perché se ne parla così poco? Perché i programmi probabilmente nessuno poi è in grado di mantenerli, perché si sa già quale sarà il programma del prossimo governo, perché... ci siamo legati mani e piedi a molti vincoli europei e quindi c'è poco da scherzare. Nel prossimo giro il margine di manovra sarà ridottissimo, per cui nessuno può permettersi troppe promesse, fanno altre cose. L'altra cosa da dire è che fino adesso sono stati impegnati anche a fare le liste, che non è vero che non siano così importanti, perché poi alla fine altrimenti non avremmo parlato di Porcellum, di nominati, di impresentabili per tutto questo tempo, per cui un loro significato lo hanno anche le liste, parliamoci chiaro. No, ma quello sono stati impegnati chi a recuperare consensi, chi andare a perderli in televisione. È possibile che da lunedì in poi si parli qualcosina in più di programmi. Noi dei giornali cercheremo anche di farlo, questa cosa qui. Proprio ieri ho avuto un incontro con rappresentanti del commercio qui a Milano per mettere giù una serie di punti irrinunciabili per loro, da poi sottoporre ai vari candidati e vediamo chi ci sta e chi non ci sta. Cerchiamo di entrare un po' più nel concreto della campagna elettorale. Esatto, perché sinceramente per il momento si è visto poco. Sì, si è visto, come dici tu, qualcuno show. Che deve... il cabaret. Ma quello non è che mancherà. Si sono visti anche gli inni, vi faccio sentire questa. Carlo Renzi, pronto, perché senta questa musichetta che parte già in sottofondo con delle parole... molto chiare, un testo mogol avrebbe potuto scrivere un testo del genere, così profondo. Gente che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una Renzi, sa che cos'è questo? Intanto non so se ha colto la profondità delle parole, voglio dire, gente che non prova in vita. Che cos'è questo secondo lei? È un inno di qualche partito. È l'inno del Popolo della Libertà, il nuovo inno, inno. Tra l'altro mi segnalano che c'è il video nel quale inizia dicendo no Hamas, no Repubblica e poi no... una serie di cose che, per le quali è no Hamas, no Repubblica, e vabbè, partono queste parole. E De Manzoni anche gli inni, però insomma, ha fatto meglio Bersagli gli abbia fatto sentire, prendi quello di Gianna Nannini, almeno una canzone. Almeno ne ha preso uno già fatto. Ho sentito anche quello di Grillo ieri, e sì, devo dire anche qui una delusione. Gira anche quello, cos'è, l'urlo di Grillo, se forse lo recuperiamo. Chi lo anche sa. Quello non ha l'altezza della fama di Grillo. Vabbè, ma non parliamo di Fini. Di Fini? Lo facciamo sentire allora, Fini. È libero. Che parlassimo di Fini. Vabbè, allora, a richiesta, sembra tutto organizzato, ma noi qua siamo prontissimi, Massimo. Che prendi? Pensi di prenderci alla sprovvista? Fini, sentite Fini su Berlusconi. Io adesso capisco perché Berlusconi appena può mi insulta, no? Alle fogne, che vuol dire? Perché? Perché lui ha ben chiaro che se non fosse stato per quell'atto di ribellione ai suoi occhi, per me è un atto di coerenza con i valori in cui credevo, in cui credo, Berlusconi sarebbe ancora a Palazzo Chigi. Berlusconi non mi ha mai perdonato il fatto di aver dimostrato che il re era nudo. Il re era nudo. De Manzoni, adesso piano, però quante cause avete ancora con Fini? Perché io volevo solo dire che ieri, mentre ero da Santoro, mi sono tolto lo sfizio, che faccio raramente, sì, di andare a vedere su Twitter che cosa dicevano. Mi è quasi venuta voglia di twittare qualcosa a favore di Fini, perché l'hanno massacrato. Una roba impressionante. L'unanimità contro Fini di Twitter ieri sera è stata impressionante. Il tribunale di Twitter ha sentenziato ieri contro Fini. Vabbè, ma non lo so. Qua a me la cosa invece che preme è, come oggi scrive Michele Ainis, non so se rienzi su questo bel porcellum che ci ritroviamo. Michele Ainis oggi in prima pagina del Corriere tuona contro le pluricandidature. No, sapete che i leader si candideranno in tutti i seggi, in tutti i collegi, si candideranno ovunque. E Ainis dice: che bello, no? Magari uno di questi è anche plurinquisito, per cui abbiamo una pluridisperazione. Insomma, poi se vengono eletti, c'è anche questa cosa. L'inganno sta anche nel fatto che hanno detto che facevano primarie di qua, primarie di là, scelta dal basso, scelta da sotto. Poi alla fine ci sono tutti i listini bloccati. Beh, no, però il Partito Democratico ha fatto le primarie, una percentuale alta la scelta così. Il Movimento 5 Stelle ha fatto le parlamentarie online. Il PDL invece è tutto bloccato. Questo anche la lista Mozzi. Possiamo dare un consiglio a questi partiti? Sì. Non è che voglio fare pubblicità al nostro sito, ma se vanno lì a sinistra in basso, cioè ABC. C'è una ricerca con 88.000 italiani che hanno detto cosa vogliono dall'Italia. Lì c'è un programma elettorale. Prendessero quello che vogliono gli italiani e dicessero: noi vogliamo fare il punto 1, il punto 2, noi il punto 3, il punto 4. Cominciassero a parlare di programmi, ma non a chiacchiere. Ma lei, Rienzi, vuol parlare di programmi ancora? Non ne voglio sapere di questa cosa del pulire la sedia di quello che è salto, del sputare in faccia a quell'altro perché ha fatto... Effettivamente la campagna elettorale ufficialmente è aperta da ieri e quindi, diciamo, da lunedì vedremo anche qualcosa di concreto nei programmi. Mettiamola così. 24 mattino. La cosa più bella che può aver detto Grillo è i politici fuori dai co eccetera eccetera. Bravo, bravo, bravo. I politici tutti all'ospizio. Grazie. Ciao Milan, ascolta, ti ammiro perché sei bravissimo. Ma si può fare una trasmissione solamente su una frase che ha detto un procuratore, quello di Bergamo, che è una frase che comunemente nelle famiglie si dice? Ma quanti padri di famiglia avranno detto la frase che il procuratore di Bergamo ha detto? E tu ci fai un programma? Dai, sei più meglio di questo. Adesso la guerra in Africa, ma siamo diventati pazzi? E chi paga? Milan, guarda, con simpatia ti dico che voi fate parte tutti dello stesso sistema. fatte le inchieste giornalistiche, promesse politiche, ma è sempre, sempre lo stesso. Noi invece, il popolo italiano, meritiamo quello che abbiamo. Una volta producevamo arte, oggi produciamo solo mondezza. Dalle nostre parti si dice che quando la pianta è marcia, tocca tagliela malcul. Ciao Milan. Sono Carlo e voglio dire che la politica italiana è ormai diventata come il segreto della Sfinge, che prima caga e dopo spinge. E comunque ricordiamoci sempre che abitavano tutti nello stesso palazzo, sì, Mimì, Cocò e Cagamucazzo. Ciao Milan, era meglio che ti chiamavi Inter, va? Vabbè, anche poeti, popolo di poeti, santi, navigatori. Siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e Carlo Rienzi, presidente del Coda Cons. E come dire, per par condicio o bar condicio, c'è anche questo, l'ha chiamato De Manzoni. Che è una taranta? È l'inno di Grillo, l'inno del Movimento 5 Stelle, l'inno, insomma. Quello che utilizzano nella campagna elettorale. Forza, coraggio, brava gente, da sempre indifferente, solo chi merita batte il prepotente. Vita che corre sulla rete, che ha cuore chi ci crede, riforma le città. Vabbè, devo dire, come testo e come ritmo, non so, Rienzi, un pochino meglio rispetto... Io voto questo rispetto all'inno del Popolo della Libertà, anche se Gianna Nannini, vabbè, quella è una cantante, vince, perché... no? Rienzi. Ma voi pensate veramente che la gente si è forzata dagli inni? No, ma però questi mi stai proprio scocciando con questi inni. Ma che dobbiamo fare? Li abbiamo trovati. Sono di questi giorni, stiamo parlando d'altro. Ma gli inni ho sono capito, l'inno. Ma fammi sentire qualche cosa di serio, no? Fammi sentire che hai detto. È una disperazione trovare qualcosa di serio di questi tempi. Oh, allora diciamo questo, ma lamentiamoci almeno. Hai visto quelli che hanno telefonato, che hanno detto? Cioè, rotto le scatole, lo so. Allora, quella è l'Italia. L'Italia è quella. Poi perché si meravigliano che vanno al 50% di astensione gli italiani. Ho capito, ma l'Italia è quella. Ma anche quello che dice, no, De Manzoni, voi siete del sistema, mentre noi del popolo. No, noi giornalisti dove viviamo? Io prendo la metropolitana come il signore che mi ha chiamato, no? Vado al mercato come tutti. Non è che sono del sistema, no? De Manzoni, sei del sistema, tu fai parte. Siamo tutti del sistema, no? Noi giornalisti. Ma anche chi telefona che è del sistema. Il problema è che in Italia abbiamo esteso il diritto al mugugno, che una volta era solo il diritto dei portuali di Genova, quelli che si imbarcavano sulle navi, no? Avevano il diritto al mugugno. Noi l'abbiamo esteso a tutta Italia. Che dobbiamo fare? Hai capito? Rienzi, qua De Manzoni vuol mettere la museruola, altro che... No, altro... per carità, il diritto al mugugno, ci mancherebbe. Anzi, dico, ogni giorno lei faccia un minuto, dice, oh, ricordatevi che c'è un problema in Italia, questo, 30 secondi. Ma lei oggi ce l'ha ricordato uno, quello dell'arsenico Cioè, voi che avete questi strumenti potenti, almeno qualcuno lo sente e il giorno dopo ci sente, aggiungi un po' al programma questa cosa, che effettivamente è importante. Ma noi ne parliamo di quello che non va, per esempio, ce l'ho qua anche su Repubblica scrive che negli ultimi 2 anni il sindaco Alemanno, poi oggi magari smentirà eccetera, ha chiamato 1020 consulenti per una spesa di 20,7 milioni di euro. Perché tutti questi consulenti? Perché? Non so, Rienzi, perché in Italia si fanno tutte queste consulenze? Che non c'è gente della pubblica amministrazione in grado di fare le cose, per cui bisogna chiedere delle consulenze esterne? Ma ci sono delle cose che sono misteriose in Italia, veramente, ma veramente misteriose. Ci sono apparati pagati mensilmente con lo stipendio nelle regioni, nelle province, sapete, no? C'è l'ufficio legale delle province, l'ufficio legale della regione, eccetera, che non fanno nulla praticamente, e si ricorre ai consulenti esterni. Ma le cose strane mica finiscono qua. Ci sono misteri, cioè 450 milioni di euro regalati a un ente inutile come l'ONA OSI, quello che dovrebbe assistere 4.000 orfani dei medici. ONA OSI. Che è ONA OSI? Degli orfani dei medici dal 1901 deve restituire 450 milioni ai medici che hanno pagato indebitamente, perché la Corte Costituzionale ha detto non devono pagare. Che ha fatto Balduzzi e Monti?

di qua o di là, e la sua scelta finirà per decretare l'elezione di chi gli viene appresso nella lista. Da qui un ossimoro consacrato dal Porcellum: è l'eletto che elegge, non già l'elettore. Anzi, un doppio ossimoro, perché in questo caso l'elezione avviene dopo l'elezione. E il popolo votante non può selezionare i candidati, dato che riceve un elenco telefonico. Prendere o lasciare con il trucco delle pluricandidature non sa nemmeno per chi vota, sicché viene negata in ultimo non tanto la libertà quanto la stessa facoltà del voto. Una vergogna, o meglio, una plurivergogna. Tanto che Ainis conclude così: diteci insomma per chi andremo a votare, e ai partiti che ancora s'affaccendano nella composizione delle liste, pulitele con un buon detersivo, perché se il pluricandidato fosse anche un plurinquisito, ci gettereste nella pluridisperazione. E questa è la possibilità, scrive Ainis, che è davvero una vergogna di questa legge elettorale, di candidare la stessa persona anche in tutta Italia, come faranno i maggiori leader. Dicevo, di programma, se volete, c'è una pagina interessante con cui concludo sulla spending review in Italia, pagina 11 del Sole 24 Ore, Marco Rogari. Tagli per la fase 3 partita da 12-15 miliardi, di questo si parla per quel che riguarda la spending review. C'è un esame dei programmi elettorali su questo tema e soprattutto un confronto impietoso. Davide Colombo lo mette a pagina 11, la spending review inglese farà risparmiare 81 miliardi. Sapete, nel 2007-2008, quando fu lanciata l'idea della spending review in Gran Bretagna, fu deciso come obiettivo un taglio di 20 miliardi di sterline all'anno e una riduzione di 84.000 dipendenti pubblici. Ebbene, 20 miliardi di sterline l'anno, primo anno preconsuntivo, cosa si è fatto? Anche di più, taglio di 23 miliardi di sterline, proprio come in Italia, vengono fatte le promesse e vengono mantenute, lì vengono anche superate, proprio come in Italia. Il giornale radio. "24 mattino, l'Italia si desta". Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8 e 16 minuti in quest'istante. Allora, vogliamo parlare di attualità politica. Con noi c'è il presidente della provincia di Roma, ma soprattutto il candidato del Partito Democratico, del centro-sinistra, alla Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che saluto. Buongiorno Zingaretti e buongiorno. Buongiorno a voi, ex presidente. Ex presidente, sì. Finita, certo. Senta, lei si candida con una lista civica, credo Impegnati, che poi è anche Impegnati, no? Con una doppia lettura. Ma sembra un po' il toccasana questa lista civica, perché coi partiti è meglio stare lontani oppure no? Ci vuole una sintesi diversa, non bisogna demonizzare nulla, l'importante è dimostrare che c'è una buona politica e di dimostrarlo con grande credibilità e per stare sicuri dare spazio alle persone. Noi abbiamo valutato oltre 350 curricula per 30 posti e sono tutte bellissime storie, anche perché impegnarsi all'improvviso per fare una campagna elettorale distraendosi dagli affetti, dal lavoro, a volte con scarsissime possibilità di essere eletto, è una bella riscossa civica. Senta, lei teme Storace dal punto di vista del centrodestra? Perché Storace ha detto: posso recuperare, sono dietro gli 8 punti, ma anni fa ne recupererai molti, molti di più. Ma guardi, non è un problema di temere nessuno, io l'ho già detto, io penso che tutti i candidati dovrebbero insieme fare una grande scommessa. Convinciamo le persone, i cittadini normali che sono schifati, a riappassionarsi alla politica. E questa è una bella competizione. Poi ognuno che ha più filo da tessere, tesserà. Io penso che la Regione Lazio bisogna cambiare tutto, promuovere una totale discontinuità con il passato e soprattutto mettere in campo un progetto molto molto innovativo. Abbassiamo i toni della polemica stupida dell'uno contro l'altro e alziamo al massimo il toni, chi può, dei contributi innovativi e soprattutto con facce pulite e oneste. E soprattutto ho visto anche usare delle parole: sarà una guerra lampo, ma la parola guerra dentro la dimensione del confronto politico, francamente, non dovrebbe esistere. Cioè, da parte di Storace ho sentito questa espressione. Senta, a proposito, parliamo un attimo di alleanze e poi parliamo sui programmi, che sono le cose che interessano più, visto che c'è, cioè, vorrei capire che cosa lei vuol fare in caso di elezione per la Regione Lazio. Però sulle alleanze, la preoccupa l'idea che Pannella possa flirtare o andare con Storace? Mi dispiacerebbe, più che mi preoccupa, perché io ho sempre detto ai radicali porte non aperte ma apertissime al confronto. 2 anni fa sono stato io a proporre, a battermi anche contro chi era contro, affinché la candidata qui fosse Emma, e ho detto a tutti, però non solo ai radicali, guardate che bisogna cambiare tutto in regione, e io non dico cambiare tutto e poi faccio l'occhiolino o impicci, e quindi cambiare anche la rappresentanza consiliare. Tutti hanno detto di sì, i radicali no. Ecco, io continuo e rinnovo ora l'appello. Provateci, non è un dramma. Promuovere un rinnovamento della classe politica vuol dire mettersi in sintonia con la voglia di innovazione che c'è in questo momento. Da parte mia non c'è mai stata nessuna chiusura da questo punto di vista. Quindi secondo lei ancora i giochi sono aperti, diciamo, con le alleanze con i radicali? Da parte mia non sono mai state chiuse. E invece si parla anche di un apparentamento, con un avvicinamento con Ingroia, che sarebbe anche un esperimento magari regionale da sottoporre anche a livello nazionale al segretario Bersani, secondo lei? Guardi, io ho avuto un lungo incontro con Antonio Ingroia e abbiamo convenuto che purtroppo in questo caso l'Election Day è un disastro, perché accavalla 2 appuntamenti molto diversi, quello politico e quello regionale. C'è una stima reciproca, ma quello che poi è stato il risultato di questo incontro è che oggettivamente è difficile su uno stesso palco una persona che dice votate Zingaretti, però a livello nazionale votate qualcun altro perché lui sostiene. E quindi complicata. Una di quelle cose che hanno reso lontana la politica dei cittadini e purtroppo anche il centro-sinistra, è la sensazione delle armate Brancaleone, quindi ci siamo detti ognuno vada con le sue idee, mai uno contro l'altro ma sempre per qualcosa, e poi nel prossimo consiglio, come io mi auguro, presieduto da Zingaretti, si vedrà. Senta, parliamo di sanità, che è un po' il buco nero del Lazio. Lei ha detto in una recente intervista che non toglierà neppure un posto letto, accusato invece il centro-destra di aver chiuso gli ospedali, ma avvierà una politica di risparmio, lotta agli sprechi, che però mi permette, un po' uno slogan che dicono tutti, mi dica in concreto e ci dica agli ascoltatori cosa farebbe sulla sanità come primi 3 provvedimenti. I primi 3 sono semplicissimi: rilanciare la centrale unica degli acquisti che è stata affossata per ridurre gli sprechi. Il numero 2, introdurre dei meccanismi più trasparenti di conoscenza per evitare truffe come continuano ad esserci nella nostra regione. E terza cosa, aprire un tavolo con gli operatori e anche con i rappresentanti dei cittadini, perché nella sanità ci sono cose concretissime e semplicissime che si possono fare e che spesso non si fanno perché non c'è trasparenza. Ne cito una: accompagnare intorno agli ospedali le case della salute, cioè una sanità di prossimità, di vicinanza, che costa molto meno che la struttura ospedaliera e spesso va molto più incontro alle esigenze del cittadino. Uno dei drammi della sanità regionale è che ci sono ospedali collocati geograficamente male, ma soprattutto c'è solo l'ospedale, quindi anche il cosiddetto, scusi il termine tecnico, codice verde, cioè colui che va per farsi vedere un problema, spesso viene ricoverato e questo costa di più. Oppure per una patologia nel Lazio ti ricoverano 3 giorni, in Emilia-Romagna 1. Già questo produrrebbe un netto risparmio, quindi ci vuole, mi permetto di dire, un po' meno interessi particolari e un po' più interessi generali. Però gli interessi sono anche della politica. Per esempio, secondo lei è normale, come prevede la legge, che la politica nomini direttori generali, dirigenti delle ASL? Guardi, è normale perché c'è l'assunzione di responsabilità. Quello che bisogna introdurre, io l'ho detto davanti all'assemblea di operatori della sanità, qualcuno è sbiancato ma molti hanno applaudito, che ad esempio noi proveremo a fare come hanno fatto in alcune poche regioni, e cioè individuare un'autorità terza e totalmente indipendente che raccoglierà i curricula, le valuterà, li giudicherà e poi alla giunta che deve decidere un numero ristrettissimo, ad esempio 19 ASL, 30 nomi, e io sono disponibilissimo, mi sono preso l'impegno a quel punto a scegliere dai 30 addirittura con il notaio, come con la Champions League, in modo che siamo sicuri che c'è la qualità e la scelta è determinata solo da quella, ma non dalla lobby o politica o economica o finanziaria che guida poi le scelte. Cioè, con notaio che vuol dire tipo palline addirittura da estrazione? Beh, non bisogna banalizzare, è un metodo che nel momento in cui io so che ci sono 30 persone brave, bravissime, che possono presiedere una ASL e devo decidere 19 posti, a quel punto se i 30 sono competitivi non avrei paura di spogliarmi anche della scelta individuale. Quindi è vero quello che dice lei, e cioè la politica in questo caso determinerebbe i processi trasparenti attraverso i quali si arriva alla nomina. Senta, Zingaretti, c'è la questione che l'ultima giunta è caduta per lo scandalo, conosciuto come scandalo Fiorito, ma comunque dei rimborsi di tutti i gruppi elettorali. Secondo lei c'è responsabilità anche del Partito Democratico in questa gestione? Cioè sono stati gestiti in maniera sbagliata? Beh, non è un problema di cattiva gestione. Il gruppo del PD ha fatto un errore, lo ha detto, e hanno chiesto scusa a settembre nel non aver combattuto contro queste scelte, e anche per questo hanno portato il Consiglio regionale per la prima volta nella storia dal dopoguerra, dimettendosi tutti in blocco, alle elezioni, e quindi c'è stata battaglia politica. E poi, coscienti di questo punto di voglia di rinnovamento, hanno fatto, almeno io questo ho chiesto, ma questo è successo, la scelta di promuovere dentro quell'organismo un rinnovamento totale. Sì. 5 di loro, solo 5 alla fine su un totale credo di 22, si sono sottoposti alle elezioni primarie e i cittadini hanno ridato la fiducia affinché questo come lo giudica? Perché effettivamente dice non li ricandideremo alla regione, ma è vero, sono passati attraverso le primarie, ma ad esempio Esterino Montino, capogruppo, ma anche altri correranno per il Parlamento. Che segnale è ai cittadini? Esterino Montino Esterino sta combattendo una battaglia sua per le primarie al comune di Fiumicino. Ah sì, è vero, lui da sindaco, però altri saranno candidati in Parlamento. Ma non si possono togliere i diritti civili alla vita delle persone all'improvviso. Penso che sia stata una scelta di grande trasparenza fatta dal PD e dal SEL, in primo luogo di non decidere chi sono i candidati. Non li ha scelti Zingaretti, non li ha scelti Bersani e non li ha scelti il partito, li hanno scelti i cittadini. Se c'è un giudizio di conferma di una fiducia, io mi permetto di dire anche grazie alla trasparenza con la quale si sono, diciamo, chiesto scusa per gli errori commessi e si sono rimessi in gioco, adesso eviterei di ritornare a un giustizialismo, ripeto, su quello che invece sono temi molto importanti di democrazia. Ripeto, li hanno scelti i cittadini. Il risultato finale, mi permetto di dirlo, guardando le liste degli altri che comincio a capire come sono composte, che la coalizione Zingaretti si presenterà come unica coalizione che fa piazza pulita del passato e proporrà tutte, sottolineo, tutte facce nuove. Berlusconi aveva promesso che l'avrebbe fatto anche il PDL, non mi sembra che stia accadendo questo. Come invece ci sarà una piazza pulita degli errori che da non ripetere sulla gestione, sulle leggi che permettono di avere tanti soldi per i gruppi elettorali? Lei cosa propone? È vero che lo decide il Consiglio regionale, ma lei da presidente eventuale della regione cosa proporrebbe? No, lo decidiamo noi, perché questa è stata una furbizia della destra. Lo decide il Presidente, ma lo decide la maggioranza politica che sostiene il Presidente. Quindi si ritorna nella norma, sostegno ai gruppi solo ed esclusivamente e rigorosamente per sostenere attività di consiglio e soprattutto trasparenza. Oggi i moderni strumenti della rete permettono di sapere, se si vuole, tutto di quello che accade in consiglio, e quello che ha colpito di quell'istituzione è l'opacità dentro la quale venivano fatte delle scelte, e questa che va distrutta. Storace, ricordiamoci sempre che se è venuto fuori lo scandalo è venuto fuori per un errore di Fiorito, che faceva dei bonifici bancari talmente anomali che addirittura se ne è accorta una banca, che ha avvertito la Banca d'Italia di qualcosa che non andava. Senta, Storace ha promesso qui a questi microfoni, e proprio l'indomani della candidatura, basta auto blu, ognuno vada con la propria macchina. Lei che primo provvedimento può promettere ai cittadini della regione Lazio per quel che riguarda il taglio agli sprechi anche della politica? Ripeto, innanzitutto trasparenza, perché non facciamo i furbi. Chi vuole rubare o vuole aumentare le spese, taglia l'auto blu e poi apre da un'altra parte. Quindi subito tutto a conoscenza e taglio netto di tutti gli sperperi possibili e immaginabili. Non continuiamo con gli slogan, come quando dicevano tagliamo 16 miliardi di trasferimenti agli enti locali portando in televisione la storia delle auto blu, e poi hanno tagliato la sanità, hanno tagliato la scuola, hanno tagliato i servizi sociali e non è successo nulla. Quindi su queste cose quello che io mi permetto di dire fa la differenza è l'esempio e soprattutto la storia. Io sono orgoglioso, visto che lei ha iniziato dicendo presidente della provincia di Roma, che la provincia di Roma nei 5 anni passati ha tagliato il debito di 300 milioni di euro grazie soprattutto a un rigore francescano sulla gestione della cosa pubblica. Beh, no, non mi dirà che le province servono allora per concludere questa chiacchierata. Intanto quella storia è finita. È finita per gli italiani no. No, ma nel senso le province in generale, non tanto la provincia di Roma, perché gli italiani sa no, che sono... la provincia di Roma è finita perché si sta andando verso la costruzione di un unico ente e penso che questo sarà una cosa molto positiva. Solo così ce l'hanno fatta però gli italiani a vedere le province, in questo caso la provincia, soccombere. Tutte le altre invece niente. È così, e anche questo però, visto che ci ho dato 5 anni della mia vita in un giudizio che è individuale, per favore tutti distinguano tra enti governati bene e enti governati male, perché altrimenti facciamo un favore ai ladri e a chi non sa governare. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata, in bocca al lupo ovviamente. Grazie per la campagna elettorale. Nicola Zingaretti, il candidato per il centro-sinistra, per il Partito Democratico alla Regione Lazio. E, noi ci fermiamo per 4 minuti, poi cercheremo di capire anche con le vostre telefonate, l'invito qui che faccio 800 24 0024, avete capito cosa sta succedendo in Africa, per la precisione in Mali, ma anche se volete in Algeria. Beh, in Algeria c'è stato un blitz delle forze algerine perché alcuni terroristi avevano sequestrato decine di lavoratori occidentali in un sito di estrazione di gas. Ma quello che sta succedendo in Mali, dove ci sono da giorni i raid aerei della Francia, perché nel nord del Mali ci sono delle forze considerate vicine ad Al-Qaeda, estremiste, e l'Italia che fa? L'Italia ha promesso supporto logistico. Che vuol dire, cari ascoltatori, secondo voi? Vuol dire appoggiare una guerra oppure no? Non vuol dire appoggiare una guerra, vuol dire aiutare un paese che sta facendo un'azione sotto l'egida dell'ONU. L'avete capita? L'appoggiate questo intervento? 24 mattino. Sono le 8 e 35 minuti, eccoci qua allora a cercare di parlare, di cercare di spiegare, capire che cosa sta succedendo in Africa, per la precisione in Mali, ma anche in Algeria. Le questioni sono abbastanza collegate. Cosa è successo sulle agenzie? Leggerete soprattutto che in Algeria la situazione è abbastanza confusa perché l'esercito algerino ha fatto un blitz per liberare una quarantina di lavoratori occidentali, giapponesi, inglesi, francesi, norvegesi, che erano stati sequestrati da un gruppo di terroristi nel giacimento di In Amenas, giacimento petrolifero al confine con la Libia. C'è stato un raid, le notizie sono ancora confuse, si parla di molti morti, si parla della stizza di Washington che non è stata avvisata di questo raid. E tutto è collegato a quello che sta succedendo anche in Mali. In Mali, il Mali è un paese dove nel nord si sono insediate da mesi una serie di forze considerate vicine ad Al-Qaeda, di estremismo islamico, e per questo da qualche giorno la Francia ha iniziato dei raid aerei, degli interventi anche via terra per cercare di fermare questa situazione. Io voglio salutare Flavio Lotti che buongiorno Lotti, benvenuto. Buongiorno. Flavio Lotti è coordinatore della Tavola della Pace, credo ancora, ma è soprattutto candidato ora alle elezioni in Umbria per Rivoluzione Civile, il movimento di Antonio Ingroia. Possiamo definirla pacifista lei, Flavio Lotti? Assolutamente sì, così come chi suona il pianoforte viene chiamato un pianista, io posso essere, visto che lavoro per la pace, posso essere chiamato un pacifista. Saluto anche Alberto Negri, che ringrazio, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno, ciao Alberto, eccoci qua. Buongiorno a tutti grazie a voi. Allora, intanto, Alberto, quello che sta succedendo in Mali, dove l'Italia ha, ha promesso un appoggio logistico, un supporto logistico, possiamo definire, al di là delle tecnicalità, l'Italia va in guerra? Perché sai che su questo adesso ci diranno l'Italia ripudia la guerra, eccetera. È una guerra quella che stiamo appoggiando, stiamo per appoggiare in Mali? Ma sai, mi viene da fare una riflessione in generale, che parliamo, scriviamo e commentiamo di luoghi che conosciamo poco e di guerre, peraltro in corso d'anni, di cui sappiamo anche poco. Non c'è da stupirsi se oggi ci troviamo davanti a questo dilemma, siamo in guerra o non siamo in guerra? La guerra in Mali c'è da sempre, nel Sahel c'è una situazione difficile e di crisi da molti anni. La stessa Algeria, di cui abbiamo parlato in queste ore, è un paese che per 10 anni è stata travolta da una violenza indicibile, ci sono stati 200.000 morti, migliaia di scomparsi, e qui credo che ormai il ricordo di queste cose sia ormai sbiadito. Quindi ci troviamo adesso in un conflitto di cui conosciamo poco e di cui naturalmente, come tutte le guerre, non sappiamo come andrà a finire. La nostra è una partecipazione, diciamo, simbolica dal punto di vista militare, però è molto importante da quello della sicurezza, perché l'Italia da sempre collabora con la Francia, ma anche con l'Algeria, proprio nel monitoraggio dei movimenti dei gruppi islamici, in un'area in cui ovviamente l'Italia ha fortissimi interessi, soprattutto in Libia. Questo sì, e in Algeria soprattutto, che come scrivi tu oggi sul Sole 24 è la cassaforte del gas, degli approvvigionamenti energetici anche per l'Italia e non solo per l'Italia. Allora, Flavio Lotti, vorrei chiederle questo. Lotti, lei, secondo lei siamo in guerra? Stiamo pronti a entrare in guerra? La definirebbe così? Beh, direi che questo è il primo passo di una guerra che, come ha ben detto Alberto Negri, non sappiamo come andrà a finire. Di certo sarà sanguinosa e lunghissima, e questo è semplicemente il primo passo. Non vorrei che fossero vere tutte le previsioni di coloro che descrivono questo conflitto come l'Afghanistan africano, oppure come dire, una nuova Somalia, cioè una, come dire, un'escalation dal quale non riusciremo ad uscire avendo risolto alcunché. Però le chiedo, Lotti, nel nord del Mali da mesi, anche da un po' di più forse, sono insediati questi gruppi di Ansar eddin, così sono definiti, e sono definiti vicini all'estremismo islamico e vicini ad Al-Qaeda. Anche lo stesso Romano Prodi, che ha un importante compito per quel che riguarda l'ONU in quelle parti, dice che invece l'intervento francese è assolutamente necessario, è per la pace, è per un equilibrio geopolitico futuro, per fermare anche l'insediamento di estremismi in una zona strategica e poco controllata dal punto di vista del territorio, poi dell'Africa, cioè alle nostre porte. Lei questo non lo vede come un motivo valido per intervenire? Allora, come ha ben detto Negri, siamo in una situazione estremamente complessa, dove gli slogan possono servirci per comunicare ma non per capire che cosa sta accadendo e soprattutto che cosa è accaduto e oggi dobbiamo fare. Questo è il problema. Noi non abbiamo bisogno di slogan, abbiamo bisogno di cercare di risolvere i problemi che per decenni non si sono nemmeno voluti affrontare. Allora, esiste un pericolo islamico? Sicuramente. Da chi è finanziato e sostenuto quel pericolo islamico? Dall'Arabia Saudita, ovvero da quei nostri stessi alleati che noi sosteniamo a nostra volta, che sono alleati dell'Occidente e degli Stati Uniti. Qual è la vera bomba che sta esplodendo in quella regione? È quella del fondamentalismo islamico oppure un'altra? Io sono convinto. Qual è l'altra? L'altra è la bomba E. È la bomba dell'economia ingiusta, perché il benessere lo vogliono tutti e tutti hanno diritto al benessere. Cioè, sta dicendo quindi che il fondamentalismo è una risposta in qualche modo? No, assolutamente no, lo nego. Il fondamentalismo approfitta di una condizione di povertà spaventosa. Pensate che il Mali è uno dei paesi più ricchi al mondo in quanto a risorse naturali. C'è l'oro, c'è il petrolio, c'è il gas, c'è l'uranio, soprattutto l'uranio che finanzia l'80% dell'approvvigionamento energetico della Francia. Ma di tutto questo la gente del Mali non beneficia niente, tant'è che il Mali, pur avendo tutte queste risorse, è al 175esimo posto in una classifica dello sviluppo umano di 187 paesi. Insomma, e lei dice il fondamentalismo, Alberto Negri, condividi questa analisi di Flavio Lotte, dice il fondamentalismo si annida laddove ci sono queste sperequazioni, c'è una economia ingiusta, com'è che l'ha definita, la guerra, la bomba E, di l'economia ingiusta, e ci ritroviamo a gestire questa situazione. Certo che Alberto fa un po' sorridere, non so se ha fatto sorridere anche te, il presidente francese François Hollande, che ieri ha dichiarato: noi non abbiamo alcun interesse economico, interveniamo solo per garantire la pace. Come dobbiamo leggere questa dichiarazione di Hollande, Negri? Ma molto tempo fa, alla fine dell'Ottocento, gli inglesi, per definire la corsa all'Africa dell'Occidente, la chiamarono lo scramble for Africa. Scramble vuol dire sgomitare per l'Africa, e anche i francesi sgomitano oggi per l'Africa in un'area, per esempio c'è il Niger lì vicino, che è uno dei fornitori di uranio dei francesi, no? È un po' l'Arabia Saudita della Francia, nel senso che l'Arabia Saudita è legato a doppio filo agli Stati Uniti, il Niger è legato a doppio filo a Parigi. Certo, scusate, in quest'area gli interessi sono vasti, sono importanti, ma non da oggi. Quello che vediamo in questo momento è una lunga crisi cominciata più di 20 anni fa, che sta attaccando tutti i regimi della regione. Abbiamo visto cosa è successo anche in Libia, in Tunisia, in Egitto. Anche la stessa Algeria è un paese in crisi, perché gli algerini si sono posti per mesi, per un anno, l'intervento militare, perché si vantavano di poter in qualche modo, rimasti l'unica potenza regionale dopo la caduta di Gheddafi, di poter controllare la situazione nel nord del Mali. Hanno fallito loro, ma hanno fallito gli americani, che hanno distribuito 600 milioni di dollari per addestrare l'esercito maliano e quelli dei paesi vicini, con il risultato che ai primi colpi di fucile si sono data gambe. Sì, dopodiché bisognerà capire, e adesso lo voglio capire con qualche ascoltatore dopo il traffico, ma noi, cioè, è giusto che noi italiani ci imbarchiamo in questa avventura, poi volete chiamarla come approvvigionamento, aiuto con gli istruttori, è giusto che la Francia utilizzi questi raid aerei, cioè questa è la soluzione? Sentiamo 800 24 00 24, Vittorio da Firenze ci ha chiamato. Vittorio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Pronto? Sì, la sentiamo sì, benissimo. Sì, buongiorno. Sì, io in realtà in Mali ci ho vissuto 15 anni, quindi è un paese che conosco molto bene, e francamente sento dire tante cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, innanzitutto, in Mali l'uranio, se c'è, non viene estratto, quindi non viene dato a nessuno in questo momento. Tutto è nato, questa situazione è nata a causa della, se si vuole, della Francia stessa, che adesso interviene, perché sono loro che hanno permesso ai Tuareg, che lavoravano per Gheddafi, di portarsi le armi in Mali e di scatenare l'inferno. Lei hanno trovato una situazione che il governo colpevolmente aveva lasciato di vuoto nel nord, perché c'erano questi gruppi fondamentalisti che sono quelli che poi hanno preso il sopravvento alla fine della questa ribellione. Questa, diciamo, il breve, perché non è facile poi ricostruire la storia, ma ora in questa situazione lei, Vittorio, che conosce anche e condivide il fatto di intervenire per stroncare questa situazione? Sì, perché la differenza rispetto all'Afghanistan è che questi gruppi non hanno nessuna rispondenza nelle popolazioni. Cioè, non è che andiamo lì a intervenire per contro un paese, come facciamo in Afghanistan, dove bene o male i mujahideen hanno appoggio anche della popolazione locale. In Mali c'è un popolo che ha subito questa cosa, che viene dall'estero sostanzialmente, perché non si dice, ma i mujahideen, questa gente, gli integralisti, vengono quasi tutti dall'Algeria e da altri paesi che non hanno alcun appoggio della popolazione locale, che vanno assolutamente fermati. Lei dice soltanto di alcuni Tuareg, che però ovviamente in parte prima lavoravano perché dati, quindi di fatto non erano più maliani da 20 anni. Qui di cosa stiamo parlando? Cioè, qui si sta parlando di un paese che è stato aggredito, che questa ribellione è stata finanziata da alcuni paesi arabi e quindi vanno in qualche modo fermati. Aspetti, la fermo anch'io, la fermo anch'io, che devo andare alle informazioni sul traffico e poi rientriamo. Strade in diretta. Spostamenti condizionati dal maltempo al centro-sud, nevicate sulla dorsale appenninica, molto intense in Abruzzo fin sulla costa adriatica, dove si viaggia con difficoltà, codice nero e traffico al momento bloccato lungo la 14 adriatica tra San Benedetto del Tronto e Pescara Ovest nelle due direzioni per i mezzi pesanti intraversati. La circolazione viene regolata dalla polizia stradale lungo le autostrade appenniniche A24 e A25. Disagi anche in Basilicata con blocchi momentanei per i camion sul raccordo Sicignano-Potenza, chiusure su molte strade statali e locali. Sul resto dei percorsi traffico del mattino con code e rallentamenti attorno alle principali città, i disagi maggiori sul tratto genovese della A7 nelle due direzioni per un cantiere sulla carreggiata in entrata a Genova e per un incidente sulla carreggiata in uscita da Genova fino allo svincolo di Bolzaneto. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora. Promo 24. I mercati finanziari si muovono ogni giorno, per questo bisogna affidarsi ad un trading innovativo. Con i CFD di IG è possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime. Ogni giorno 140.000 trader usano la piattaforma di IG e grazie al nuovo servizio Insight puoi osservare in tempo reale quanti trader sono posizionati al rialzo e quanti al ribasso. La piattaforma di IG non comporta alcun canone di utilizzo, garantisce un'alta velocità di esecuzione e ti offre accesso a grafici, notizie e segnali di trading. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su igmarkets.com. Allora, le 8:48 minuti, siamo con Alberto Negri, Il Sole 24 Ore, Flavio Lotti, che è coordinatore della Tavola della Pace e si candida ora per la formazione di Antonio Ingroia, per parlare di quello che sta succedendo tra Mali e Algeria. Vorrei sentire anche Antonio da Padova. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno. Che ne pensa? Buongiorno a tutti. Ma io volevo apporre una questione un attimo semplicemente molto tecnica e sì. Flash. Allora, c'è uno spartiacque molto chiaro che riguarda il fatto di decidere se andiamo in guerra o se non andiamo in guerra. È in questo senso, quando la diplomazia non riesce più ad agire e non ha più strumenti di azione, praticamente si è in guerra. Quindi è inutile che si vada avanti con questo relativismo, siamo in guerra, non siamo in guerra. Prima decidiamo se la diplomazia o comunque se gli strumenti diplomatici hanno condotto la via corretta. E poi, una volta che non c'è più diplomazia, automaticamente, se si vuole risolvere la questione, si va in guerra. Automaticamente. Quindi non andiamo per campi a dire siamo in guerra, non siamo in guerra, ci sono interessi. Gli interessi, vabbè, li studiamo dopo, ma adesso, se la diplomazia non ha fatto il suo, siamo in guerra. Io va bene, potrei lei essere smentito. No, ma certo, no, ma lei appoggia l'idea, cioè si era fatto un'idea di quello che stava succedendo in Mali negli ultimi mesi, ha letto i giornali, ha visto che ha capito che cosa vuol fare l'Italia con l'appoggio logistico a quello che sta succedendo in Mali, si è fatto un'idea compiuta di quello che è, oppure se gli è piombato il Mali in casa sua da due giorni, Antonio? Guardi, io indirettamente seguo queste informazioni un po' dalla cronaca, ma anche da Sky eccetera, da varie emittenti, sì, varie news eccetera, e l'idea che ho io è che appunto ci sia un gran minestrone di cose, tra cui anche interessi, tra cui anche necessità locali, cioè è un minestrone e come tutti i minestroni anche in Italia lo vediamo, vanno smontati un po' alla volta, cioè sono meccanismi, scatole che devono essere prese, sì, parte per parte, divise e affrontate, va bene, una per una. Va non bene. Si può fare di tutto un'erba. Intanto la ringrazio Antonio, vorrei tornare un attimo da Flavio Lotti. Lotti, qui che cosa bisogna fare? Adesso non mi attacchi, mi scusi la parola, il pippone dell'economia giusta, del mondo da rinnovare, da cambiare. Il mondo giusto e perfetto purtroppo è un'utopia. Che cosa bisogna fare lì se ci sono insediati delle persone che, come dice il nostro ascoltatore che sta in Mali, non hanno appoggio locale, sono solo degli scappati dall'estero, che hanno portato armi, che portano rischi di terrorismo, cioè che bisogna fare in concreto se lei fosse il ministro della difesa o il ministro degli esteri oggi? Beh, innanzitutto direi che quello che voi state facendo in questo momento è qualche cosa di straordinariamente importante, cioè fare approfondimento su un tema che è centrale per il futuro del nostro paese e per uscire dalla crisi in cui siamo piombati. Vabbè, questo siamo è un primo dato. dato, no, perché il nostro servizio pubblico, la RAI, mi consenta di dirlo, non ha ancora dedicato un solo spazio. Vabbè, ho capito, però così, vabbè, mi fa, così mi fa l'assist, dice che devo andare io anch'io contro la RAI. No, però questo è un punto importante, perché noi ci stiamo sempre battagliando per dare vabbè, capito, l'informazione, questa prima la stiamo facendo, però lei invece che ha di fronte questi di Ansar Eddin e deve prendere una decisione, lei che è François Hollande, cosa fa? Allora, diciamo, se sono François Hollande, so che questo intervento non è paracadutato dal cielo, è stato pianificato da diversi mesi, tant'è che noi lo abbiamo pubblicato già 2 mesi fa in un atlante delle guerre. Beh certo, un intervento del genere si pianifica, non è che si parte... È stato addirittura annunciato. Qual è il problema? Che cosa farei io? Direi che cosa avrei fatto già qualche mese fa o forse qualche anno fa. Avrei cominciato a riunire alla Farnesina un gruppo che pensa e progetta quale deve essere la politica dell'Italia in quella regione, quali sono i nostri interessi, come li gestiamo, quali sono gli interessi dell'Europa, sono gli interessi di quel paese. Posso obiettare che forse a quelli di Ansar Eddin della politica estera della Farnesina, sinceramente, non gliene frega niente. Allora io dico questo, faccio il passo successivo. Sì, bisogna intervenire. Io sono dell'idea che le guerre, la comunità internazionale le deve fermare tutte, non solo dove c'è l'oro, il petrolio e l'uranio. Vanno fermate, ma che cosa bisogna fare per questo? Bisogna innanzitutto che gli interventi siano trasparenti, ovvero non li possono fare le ex potenze coloniali, le devono fare quelle organizzazioni, quei paesi che si chiamano democratici. Ma guarda che le fa sotto l'egida dell'ONU, cioè c'è... No, non è sotto... L'intervento è... Io ho letto con grande attenzione la risoluzione del 20 dicembre scorso, che è l'ultima, e che prevede tutt'altre cose. Prevede la costituzione di un corpo a guida africana, prevede la realizzazione di una serie di interventi, perché questa cosa, guardi, non è che l'emergenza è di questi giorni, è un'emergenza che è lì, che sta bollendo da ormai un sacco ma di questo mesi. Però mi lascio andare un attimo ad Alberto Negri, che dobbiamo chiudere. Come evolverà questa situazione anche dal punto di vista italiano, secondo te, tecnicamente? Ci ritroveremo in una guerra non voluta tra pochi giorni? Ma non credo in questi termini, credo che tra un po' ci sarà il cappello dell'ONU o in particolare quello dell'ECOWAS, cioè dell'organizzazione africana. È stato già nominato un generale nigeriano che dovrebbe in qualche modo coordinare un contingente internazionale, anche perché questo intervento i francesi, se fosse, si aspettavano ancora maggiormente un contributo africano, non vogliono far morire troppi loro soldati dentro le sabbie del nord del Mali. Poi, per quanto mi riguarda, cari signori, io non dovrei essere qui a parlare con voi, ma dovrei essere in Mali. E perché non siamo lì? Perché i giornali sono in crisi, per mancanza di soldi, ma soprattutto per un motivo culturale di fondo, che le nostre classi dirigenti in genere hanno uno scarso interesse per quando succede fuori dal cortile di casa. Anche se poi questo cortile ci ha fini molto più e ci arriva poi in casa, ci arriva in casa quando lo scopriamo dai titoli dei giornali. Va bene, io mi fermo e vi ringrazio. Alberto Negri e Flavio Lotti, voglio ancora ricordare, candidato in Umbria per Rivoluzione Civile di Ingroia, coordinatore della Tavola della Pace. Ci fermiamo qui per questa settimana, tra poco c'è Bersani, Pierluigi Bersani con Simone Spezia a 9 in punto. E noi ci ritroviamo lunedì alle 6.30, seguiteci su Facebook, seguiteci su Twitter, io sono Alino Milan, un saluto da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e il nostro mitico alpino Peter Bescapè. A lunedì.